Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Amore gay e coming out. Ciao Project, ti volevo raccontare la mia storia e poi mi piacerebbe sapere che cosa ne pensi. In fondo alla mail ho aggiunto anche il mio contatto, se ti va di fare due chiacchiere. Dunque, chiamatemi Marco, non mi chiamo così, ma così mi chiamano tutti quanti perché il mio vero nome non mi piace affatto. Ho 21 anni, anzi, purtroppo dovrei dire quasi 22. Vivo in una grande città, studio scienze motorie. Ho fatto studi che hanno a che vedere con lo sport, perché da sempre sono uno sportivo, e anche adesso faccio sport a livello agonistico, eppure con buoni risultati. Cioè, voglio dire, anche se so che la carriera di un atleta, e soprattutto di uno della specialità che faccio io, finisce presto, io vorrei comunque restare nel mondo dello sport, perché quello è il mio vero mondo, e perché mi ci sento veramente a mio agio. Faccio attività sportiva da quando ero piccolissimo, la palestra è la mia seconda casa se non addirittura la prima, perché passo più tempo in palestra che a casa. Ma veniamo al punto. Fino all'anno scorso al sesso non ho pensato molto. Avevo prima la scuola, poi l'università e soprattutto avevo le gare che per me erano una cosa fondamentale. In pratica, fino all'anno scorso, direi tutto l'anno scorso e anche oltre, anche gennaio-febbraio 2008, per me l'attività sportiva era solo attività sportiva, importante ma solo attività sportiva. Non mi sono mai sentito in imbarazzo nello spogliatoio a fare la doccia con gli altri. Qualche scherzo a sfondo sessuale l'ho fatto e l'ho anche subito, ma assolutamente senza nessun problema. Anzi, l'ambiente sciolto dello spogliatoio mi è sempre piaciuto molto, perché lì giochiamo un po' e la cosa mi scarica parecchio. Ma dall'inizio di marzo, e quindi in pratica da pochissimo tempo, le cose sono cambiate. Non chiedetemi perché e se c'è un motivo preciso, ci ho pensato tanto ma di motivi non ne ho trovato nemmeno uno. Comunque, avete capito, ho cominciato a rendermi conto che nello spogliatoio c'erano altri ragazzi nudi, e questa cosa ha cominciato a preoccuparmi parecchio. Non avevo mai fatto troppo caso ai miei compagni nello spogliatoio o nella doccia. Per me era sempre stata una cosa assolutamente normale, ma diciamo che da marzo ho cominciato a notarli proprio e mi accorgevo che per loro non era cambiato niente, ma per me sì, era cambiato e come? Mi interessavano. Insomma, parliamoci chiaro, me li studiavo proprio e cominciavo a pensare come sarebbe stato bello se quei ragazzi si fossero innamorati di me. All'esterno ho continuato a comportarmi più o meno come prima, ma per me cominciava a presentarsi un problema che non avevo mai avuto, cioè il problema di controllare l'erezione. Che poi nello spogliatoio e nelle docce è un tabù, ed è un tabù non da poco. Insomma, quello è il segno distintivo che sei gay. Fai di tutto perché non ti capiti e hai paura perché non sai come la potrebbero prendere gli altri. Risultato di tutto questo, sto molto meno tempo nello spogliatoio e cerco di essere coperto il più possibile, ma prima o poi il momento della verità deve arrivare e allora mi vengono proprio le angosce. A livello generale, l'idea di essere gay l'ho presa bene. Non ho avuto in pratica nessun problema. Eppure prima non avevo mai avuto una ragazza. Cioè, non avevo mai avuto una ragazza nel senso vero della parola, storielle sì, ma non le ho mai prese sul serio. In pratica, ho solo preso atto di quello che già sapevo. Però, quando sei gay e vivi in posti come quelli dove vivo io, cioè in mezzo agli sportivi, che non saranno magari tutti bellissimi come la gente crede, ma comunque tra loro di quelli belli ce ne sono e come, beh, insomma, ti senti dentro una certa agitazione. Ho letto che tanti ragazzi cercano i siti di incontri oppure le chat erotiche, io cose del genere non le ho fatte mai. Per me la palestra è tutto, anche da quel punto di vista. Praticamente non ho nessun bisogno di cercare foto di sesso in rete, perché io sto in mezzo ai ragazzi quanto e come voglio. Il mio problema vero è un altro, e cioè capire se tra i ragazzi che mi piacciono ci sono ragazzi gay, perché di mettermi appresso a un ragazzo etero per farci la figura del babbeo e magari per essere pure messo in mezzo non ce n'ho proprio nessuna voglia. Sto pure andando un po' in crisi rispetto al rendimento sportivo. Il mio trainer me lo dice spesso. Mi chiede come mai, ma io a lui non lo posso spiegare. Un altro particolare, adesso non ridete, io non ho nessuna esperienza concreta gay, non ho mai fatto sesso con nessuno. Adesso non mi sento veramente innamorato, anche perché, come dice Project, bisogna essere in due. E quindi non sento proprio il bisogno impellente di fare sesso con qualcuno. Quando capita faccio quello che fanno tutti, però io di andarmi a cacciare nei pasticci per fare sesso con uno che non conosco e che non so nemmeno se sta bene, ma insomma me la sento proprio. Adesso diciamo che sono solo, nel senso che non ho un compagno. Premetto che non ho nemmeno amici gay. Ho trovato il blog Progetto Gay sulla ricerca di Alice e sono rimasto stupito della quantità mostruosa di materiale che contiene. Io quel po' di conoscenza sui gay che ho me la sono fatta su quel blog, non solo leggendo i post ma anche i commenti, poi ho scoperto il forum, prima non ci avevo fatto caso, ma anche quello è una miniera. E poi ho letto anche un bel po' di post e mi ci sono ritrovato, però non ho avuto il coraggio di scrivermi, ma credo che lo troverò. Adesso, parlando schietto, io penso che prima o poi, sì, lo penso. Penso che prima o poi farò qualche grossa fesseria, ma dico grossa, in palestra. Perché a dire la verità, un ragazzo che mi attira moltissimo c'è. Io adesso faccio l'allenatore, lui sta in un gruppo che hanno affidato a me, lui ha 19 anni, è più piccolo di me, ma in fondo io ne ho ancora 21, non ce n'ho mica 50. Per essere bello è bello, e poi facciamo la doccia insieme tutti i giorni, insomma, avete capito, di lui mi piace proprio tutto. Con lui mi comporto in modo disinvolto, cameratesco, come faccio con gli altri ragazzi, ma con gli altri mi viene spontaneo, con lui no. Abbiamo parlato tanto, sia prima che dopo la doccia, di me si fida completamente, mi considera proprio come un fratello. Deve fare la maturità a giorni. Un paio di settimane fa stava proprio tristissimo. Ci siamo fermati a parlare e mi ha detto che la prof di matematica l'ha chiamata a tradimento e gli ha messo un voto basso e gli ha detto che non lo presenterà con la sufficienza. E lui ci è rimasto malissimo. Diceva che aveva studiato tanto per quella interrogazione, ma che la prof era proprio una stronza e che avrebbe fatto di tutto per farlo andare male, perché ce l'aveva con lui. A un certo punto aveva proprio gli occhi rossi e si stava mettendo a piangere. Io lo volevo abbracciare, lo volevo tenere stretto per dirgli che gli volevo bene, ma potete capire, mi sono sentito congelato e non mi sono nemmeno mosso. Gli sono venute proprio due lacrime che mi hanno strappato l'anima. Lui se n'è vergognato e le ha asciugate con le mani. Allora gli ho detto che l'anno scorso ho perso una medaglia importantissima per 2 centesimi di secondo e che dopo, quando nessuno mi vedeva, mi sono messo a piangere come una fontanella. Poi c'è stato l'allenamento e io l'ho coccolato parecchio, cioè gli riservavo un'attenzione speciale. E di questa attenzione lui è stato contento. Poi, al momento della doccia, ho avuto quasi l'impressione che cercasse il mio sguardo, cioè che cercasse di capire se io lo osservavo, e penso che l'abbia capito. Quando siamo andati via, si è fermato a parlare con me, ma in un altro modo, almeno io ho avuto l'impressione che fosse in un altro modo, mi guardava negli occhi in modo più diretto, mi sorrideva. Ho pensato che volesse da me un incoraggiamento, ma io non ho fatto proprio niente. La paura fa 90. È vero che con me non ha mai parlato di ragazze, certo, ma questo non vuol dire nulla. La mia angoscia adesso è una sola. È gay o non è gay? A dire la verità, è come se avessi la premonizione di essere sul punto di cacciarmi veramente in qualche brutto pasticcio. E quindi cerco di trattarlo bene, ma senza eccedere, e anzi, sto appresso anche ad altri ragazzi, ma dovrei dire che fingo di stare appresso ad altri ragazzi, perché è proprio così, fingo di stare appresso ad altri ragazzi per tentare di liberarmi dall'idea fissa di capire qualche cosa in più di lui. Mi studio tutti i modi per stare con lui più a lungo possibile, ma senza dare troppo nell'occhio. Ma quando l'occasione si presenta, faccio di tutto per non stargli troppo addosso. In pratica, adesso parliamo solo quando è lui che me lo chiede, ma io non prendo mai l'iniziativa. Però quando lui me lo chiede, mi dimostro proprio entusiasta. Oggi, al momento della doccia, mi ha guardato e mi è parso che avesse un principio di erezione. Ma molto probabilmente me lo sono immaginato, perché uno alla fine vede soprattutto quello che vuole vedere. Uffa, non ne posso più, ma perché mi devo innamorare di un ragazzo così e non devo avere il coraggio di parlargli apertamente? Che cosa potrebbe succedere? Non lo so, in pratica io penso che lui nemmeno sospetti che io sono gay, o forse sì, comunque non lo so, non so più che cosa pensare, ma è uno stress insopportabile. Volete ridere? Beh, in fondo, io penso che lui sia etero e che stia bene con me proprio perché per lui non ci sono complicazioni di nessun genere a livello sessuale, dico. E pensa probabilmente che sia così anche per me. Uffa, sono proprio condannato a questo eterno tormento del non sapere mai come comportarmi. Se va avanti così e non mi congela con qualche cosa di straordinario, tipo vederlo baciare una ragazza o farmi discorsi da deficiente sui gay, beh, io credo che la follia la farò. Ho provato tante volte a prepararmi il discorso, ma penso che alla fine sarei molto banale e molto diretto, tipo io sono gay e tu? E a questo punto, boom, mi arriva un ceffone. Oppure mi sgrana gli occhi davanti e mi guarda sconvolto, come a dire che? Certe volte nello spogliatoio mi sento un sessuomane e qualche volta mi sento pure in colpa perché in effetti io lo sto imbrogliando. Questo fatto mi pesa parecchio e potrebbe essere pure uno dei motivi di fondo per fare il grande passo e dirgli veramente come stanno le cose. Un abbraccio, Marco. Se pubblichi questa mail, vediamo che cosa ne pensano i ragazzi. Questa è la voce del progetto. Una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro.